Barisone è diventato vicepresidente, né? Cruce, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. La mia ragazza mi ha appena mandato un messaggio per lasciarmi, un pappone che non ho neanche letto. Le ho semplicemente risposto: sto ascoltando la zanzara e non rompermi i coglioni. E così bisogna fare così, come suggerisce questo ascoltatore. Se qualcuno vi chiama, se qualcuno vi dice, la vostra fidanzata, la vostra ragazza, vostra moglie, vi dice... alle 6:30 dovresti fare quel dovresti fare, che ne so, accompagnare tuo figlio, sì, ecco. Accompagnare tua figlia, o fare la spesa, andare a fare la spesa. L'unica risposta deve essere: vai a fare in culo. No, devo dice, no, ascoltare, va bene, amore, la radio. Va bene, amore, vado subito. Intanto metto un po' di musica, magari musica classica da sentire. Ah no, sì, è sì, il sì. Contrario che bisogna no, fare. No, musica classica, Bach. No, è il contrario. Bach. Bisogna fare come suggerisce questo ascoltatore. Assolutamente, è tutta gente involuta questa, ma lo è sai, tutta no? Gente che rappresenta, è gente involuta, no, è la parte migliore, come dici tu, migliore dell'Italia, no, quella la parte migliore, è la parte silenziosa dell'Italia. Quella che non treve, questi sono dei maiali, ma delle persone che trattano le donne con violenza e usano anche frutta, verdura durante i rapporti, beh, i rapporti sessuali, quello è buono, quello è sono buono. Dei maiali, perché si riprendono col telefonino, no, e poi lo mandano agli amici, questo è buono. Sono dei maiali. Maiali. Ma scusa, ma perché usare frutta e verdura è una cosa strana, è una no, cosa ma normale. Dillo alla radio, sì, uno non è strano, dai, se no, uno dai. Non è normale, tutti questi qui che telefonano con la fidanzata vicino, peraltro, che hanno la fidanzata, dice: sai amore, l'altro giorno ho messo una banana con zucchino, cioè sono persone schifose, ma tu attrai persone schifose, ma non è vero, non è che vero, chiamano, trattano male le fidanzate, dicono le porcherie alla radio, peraltro, perché se uno ha una intimità anche vivace, io sono tutto anche trasparente, ecco, quello è grave, io posso essere anche favorevole a un'intimità vivace, ma non vivace, senti, vivace. Si chiama intimità vivace. Va benissimo, figura. Ma non che il telefono dice: sai, sono felice perché sono tornato a casa e ho trovato la mia fidanzata che era a letto col mio migliore amico. Ma dice: scusi, ma e quindi non racco- uno che hai fatto? Ah, dice: no, mi sono buttato in mezzo anch'io. Ah, dico, vabbè, ho capito, bravo. E lo racconti alla radio? E allora, ne vai fiero? Cioè vai fiero, ragazzi, di essere un cornuto? Sei bisogna, un cretino, bisogna miserabile. Sdoganare la parola handicappato. Lo ha fatto. Giustamente. Lo ha fatto giustamente il professor Cacciari. Adesso veramente mi sono rotti i coglioni, sia degli attacchi che riceviamo sul linguaggio, sia del fatto che alcune parole non possono essere usate. Naturalmente dipende dal contesto. Se si dice handicappato di merda, brutto, disabile, handicappato del cazzo, è una cosa. No, brutto. Se si dice, come ha fatto giustamente il professor Cacciari ieri sera a 8:30, gli è sfuggita la stupidaggine. Non gli è sfuggita, ha fatto la stupidaggine. Ha detto una cosa corretta. Voleva dire anche una persona disabile, voleva dire anche una persona che non ci vede. Ma è brutto, anche un handicappato. Non è un'offesa, è sbagliato. Ma è la constatazione poteva di una realtà. Poteva dire anche un ascoltatore, anche un telefonista della zanzara, non un ascoltatore, gli ascoltatori sono bravi, perché, ad esempio, anche adesso mi sta scrivendo una brava persona, laureata, psicologo, eccetera, che ascolta la trasmissione, che però non telefona. Perché non telefona. Per cui bisogna distinguere gli ascoltatori dai telefonisti. Se Cacciari avesse detto anche i telefonisti della zanzara possono capire, dai, vuol dire anche un idiota. Ragazzi, è sinonimo di idiota. Sentiamo Cacciari intanto, sentiamo Cacciari. Certo che Renzi non può continuare a governare, questo è palese, pacifico, e certo che non si può fare un quarto governo tecnico di scopo, eccetera, è evidente che bisogna andare a governare il più rapidamente possibile, non c'è bisogno neanche di dirlo, è questo il problema, ma dico anche un cieco, un sordo, un handicappato capisce che non è possibile pensare di poter continuare fino alla scadenza naturale della legislatura, ma questo è palese. Allora, qui c'è da difendere la spada tratta perché lo hanno attaccato in tutti i modi e le associazioni e i rappresentanti dei disabili. Ha sbagliato. Non ha sbagliato, ha detto una cosa normale, una cosa normale, che tutti noi pensiamo. Ma cioè, no, io non la penso. Voleva dire lui voleva dire semplicemente una cosa, anche gli handicappati. Se avesse detto anche Mauro da Mantova, Mauro da Mantova non può capirlo. Anche Donato da un altro che non può capirlo. Anche il divino Telma capirebbe una cosa sì. Ecco, allora, divino Telma è sinonimo di stupido patentato, cretino patentato. Siccome è sinonimo di quello, avesse detto anche il divino Telma è in grado di capire, sarebbe stato meglio. Dai. Anche il divino Telma è in grado di capire. Mamma mia. Sai che cos'è che non sapevamo? Una cosa interessante, cioè che chi si avvicina... Mi sta scrivendo Abdalla Kabakevji, Abdalla Kabakevji. Che dice, vuole Abdalla Kabakevji? Che vuole? Lui parla lui, quello vicino alle associazioni islamiche estremiste, lui e la moglie, vergogna. La distinzione tra l'intimo e il pubblico favorisce la sessualità, chi mette in pubblico ha problemi in quel senso, ciao caro, grazie Abdalla. Lo dice lui l'islamico, ma dai. Beh, lui l'islamico, intanto è un dentista siriano, bravissimo, di Milano, dentista siriano. Allora, dentista Adinolfi dice che chi segue la lobby LGBT sparisce, cioè la sua analisi è questa, che siccome Renzi ha approvato la legge sulle coppie gay ha perso il referendum. Non mi pare, dai, sì, così. Qualsiasi leader occidentale abbia voluto farsi bello, diciamo, con le leggi contro la famiglia dettate da una lobby, la lobby LGBT, l'ho detto chiaramente, verso cui sono dimostrati proni, tutti questi leader sono spariti. Ragazzi, attenzione a quello che succederà nei prossimi giorni. Ho letto oggi delle cose molto interessanti su vari quotidiani, caro Parenzo, alle 7 di questa mattina. Una cosa mi è rimasta, poi è tutto da cancellare dopo 10 minuti quello che c'è scritto sui giornali. Una cosa mi è rimasta molto chiara, molto evidente, che ci sono un gruppo molto nutrito, un gruppo molto folto di parlamentari della Repubblica che potrebbero allungare questa ridicola e inutile legislatura fino a settembre dell'anno prossimo, quando scatterà il famoso vitalizio. Sono tanti questi deputati e questi senatori, c'è anche un numero esatto, non mi ricordo, più di 100, forse anche quasi 200, ve lo dirò dopo, adesso non me lo ricordo esattamente. Attenzione a queste cose, attenzione alle persone che parleranno, attenzione a chi dice certe cose, perché il vitalizio, lo scatto del vitalizio non è cosa da poco, anche se poi è stato ridotto rispetto agli anni precedenti, eccetera eccetera. Però attenzione, molti potrebbero ritardare la fine di questa ridicola legislatura, mi è scappata pure la penna, ridicola legislatura che ormai non ha più senso di esistere, solamente per il vitalizio. Dunque, attenzione, attenzione. I grandi scontri su Rete 4, Parenzo, secondo te chi c'è accanto a Librandi? Chi ci può essere vicino a Librandi? Ma sarà sicuramente un leghista. In questo caso Mario Giordano. No, in questo caso è il signor Morelli. Marcato, ecco, signor Morelli della Lega. Il direttore Radio Padani. Radio Padani. Basta mettere un leghista, uno di questi Librandi qui. Librandi contro Morelli. Senti. Librandi è come i tori nella corrida. Si sa già che 9 su 10 muore il toro. 9 su 10. Senti Librandi. Poi c'è la volta in cui... Ma Librandi, quando è che andate a casa? Dai, quando è che andate a casa? Questa è la domanda che gli italiani si pongono dopo il no. Cominciate ad andare a casa e poi ne riparliamo. Guarda, io anche se vado a casa mia sto bene perché... E allora vacci, guarda che ti assicuro che tanti qua sono contenti. Aiutare anche da casa mia gli italiani, invece tu sei un nulla facente, anche se vai a casa tu certo. Non aiuti nessuno, capisci? E allora questa ospitami a casa tua esattamente come Lega, fai con 160.000 persone a 35 al giorno. 70 persone, io ce ne ho là due che lavorano per me, 70 persone che avevano perso il lavoro non siete riusciti a sistemare. Non so, io non credo che abbia vinto il tuo partito questo referendum. Se poi chi l'ha vinto? Librandi, chi l'ha vinto? Chi l'ha vinto? Ha vinto il popolo. Per battere Renzi avete dovuto mettervi insieme in 50, no, Renzi, perfino D'Alema avete preso, no? Quindi, Renzi, non lo so, ma chi siete? Ma che armata Brancaleone siete? Quindi che cosa insomma, c'hai da ridere? Il popolo, a chiamarlo armata Brancaleone, il popolo. 100% puro. E Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! La Zanzara. I nani. Li avete visti? Capite? Rive del fiume. Novità da casa Benson. Ci sono novità, attenzione. Da casa ci sono... Benporad? No, Benson, da casa pensavo Benson. Pensavo Benporad, dico, cosa c'entra povero Benporad? Sembra strano. Cioè, allora, novità da casa Benson sono che ha fatto un nuovo appello per il suo stato di estrema povertà. Ma che urla, sta benissimo. Ma che povertà? Senti. Ma dove? Sono Richard Benson e vengo considerato uno dei chitarristi più veloci al mondo. Ho vinto Guitar Wars a Los Angeles come chitarrista più veloce del mondo, Battle of the Beasts a Philadelphia, dove ho comprato anche questo bastone infernale col teschio in avorio. Solo questo può uccidere una persona, basta sfilarlo e c'è una lama. Però sto male di cuore, non riesco a respirare, avrei bisogno assolutamente di una casa, se no rischio di ritrovarmi per strada tra poco. Per cui chiedo un contributo a tutti i miei fans, a tutta la gente che mi vuole bene e a chi naturalmente voglio bene anche io, per aiutarmi. Basta versare un piccolo contributo, un euro, 5 euro, 10 euro, 1000 euro. Mi sarebbero veramente d'aiuto. Però amico mio, te compri non so quante più sigarette. Più che i nani che ho visto a cantare, i soldi. Li avete visti sul mio conto corrente. I soldi. Scusa, ma te spendi tutte le sigarette, i soldi in sigarette. Ma raga, poi non urla, poi va, vogliono spaghetti. Dai, ma ragazzi. Dice che un amico di Obama lo sta aiutando. Aspetta, chi? Un amico di Obama. Chiedo un aiuto a tutti i miei fans, che so che sono tanti in tutto il mondo. D'altronde ho molti amici molto importanti in tutto il mondo che già mi stanno aiutando, tipo Obama, vari discografici. Oh, non è un amico di Obama, Obama proprio, cioè Obama dice di essere amico di Obama, amico mio Obama. Ma quale Obama? Ma di che parli? Dai, noi ti vogliamo bene, ma non ci puoi venire a raccontare primo che non hai bisogno di soldi perché te li spendi tutti in sigarette, non fumare, non lasciare che tua moglie si gioca i soldi al bingo, i soldi della sorella, è una famiglia, ho paura di morire. Vabbè, d'accordo, questo va bene, senti. E spero che mi potrete aiutare lanciando l'ultimo urlo prima di morire. D'altronde non ho paura della morte, io non me ne frega un emerito cazzo, perché mi sento ancora di avere 18 anni e avrò 18 anni per tutta la vita, avete capito? Ora vi saluto, sono sempre da guerra nonostante sia molto malato. Vi dovete spaventare! Fermo! Non sta bene questo coma di testa, oh! Non sta bene, dai! Allora, Giuseppe dalla provincia di Chieti, vai! Ecco, apriamo le stalle, va? Luciani, buonasera. Apriamo le stalle. Che vuoi? Apriamo le stalle. Cosa vuoi? Questo è il solito. No, sai che cosa voglio? Sai che cosa voglio? Le stalle aperte. Ho sentito. Una mia telefonata. Adesso fai stare zitto. Ha mandato la fattura. Per i diritti. In che senso? Scusami, Giuseppe. Lucia, lei fa la trasmissione con una mia telefonata e fa un audience abbastanza è da dimostrare, il nesso è da dimostrare. 1000 euro, ma lo può mandare, ma io ti do due calci, io ti mando due calci in culo, no? 1000 euro a dottorino Cruciani. Abbiamo calma, tagliato una tua telefonata perché sei evidentemente un cretino e l'abbiamo mandata in onda a testimonianza del tuo cervello bacato, del tuo cervello bacato. No, perché hai chiamato oggi? Perché hai chiamato, Giuseppe? No, ho chiamato perché è una persona sola. Una fatturina. No, nessun soldo, nessun soldo, ti attacchi, ti attacchi. Poi dimostri la tircheria. Sì, vabbè, poi, sono tirchio. Allora poi andiamo avanti, forza. Poi la seconda cosa, sì, quel maiale che c'ha a fianco. Sì, cioè, piacere Parenzo. Piacere Parenzo. No, mi dicono che hanno appeso di cognome Maiale. Aspetta, mi dicono piacere Parenzo. Mi dicono quando che hanno appeso, lo... fermo, stai zitto Giuseppe, mi dicono che hanno appeso qui sotto qui al Sole 24 Ore. Si chiama Giuseppe Maiale lui, un cartello che c'è scritto Cruciani lottiamo anche per tua figlia. Alcuni animalisti avrebbero appeso questo cartello. Vabbè, comunque, Giuseppe, dimmi. No, dicevo, quel maiale puzzolano, quando è che se lo tolta il coglione, quello fa perdere l'odio. Allora? No, allora potrei venire pure io là. Ma cosa hai chiamato a fare? Oggi non hai un cazzo da dire, hai chiamato oggi perché sei ha ragione Parenzo. Sei solo, sei una persona estremamente... Noi ci fa piacere. E disturbato, è mentalmente disturbato. Quella era la prima cosa. Cruciani, lascio i miei dati. Ma i dati per che cosa? Non lasci niente, no, per la polizia devi lasciarli, all'ospedale. 1000 euro, va bene. A 1000 euro di che? Ma c'hai le pigne in testa tu, Giuseppe, hai le pigne in testa, capito? Che tirzione che sei. Gioele dalla provincia di Arezzo, vattene a casa, vai con una mignotta almeno, no? Spendi quei soldi a mignotte, Giuseppe, no, non ci vai a puttane. No, non usiamo questi termini che in macchina sei sono solo, i bambini. Gioele. Sono i bambini a questo. Cruciani, dimmi. Io dicevo che secondo me Cacciari ieri sera ha detto una grande cazzata, insomma, ecco. Cioè? Perché usando la parola handicappato, che... pare che ci siano numero 3 animalisti con dei cartelli contro di me qua sotto. Ragazzi, andatevene a casa, siete in 3, andatevene a casa, no? Dai, vabbè, comunque. Io penso che cosa c'entra la deficienza con usare il termine sordo, cieco oppure handicappato? Insomma, non credo che sia, diciamo, un discorso sensato. Ha sbagliato, secondo me. Ragazzi, voleva dire una cosa molto semplice. Anche una persona che non ha le sinapsi collegate, in questo senso, una persona che ha dei problemi mentali, può capire che Renzi non può ripresentarsi come capo del governo. Questo voleva dire. Ha utilizzato la parola handicappato, che è una persona, una parola che magari tutti noi usiamo. Sbagliato, no, tutti voi maleducati. Tutti voi perché? Maleducati. Ma non vogliamo attaccare gli handicappati, è per dire che anche le... Ecco, perché l'eloquio è importante, la parola. L'eloquio e la parola sono importanti perché si attribuiscono qualità alle persone con la parola. Ci dobbiamo fermare, la verbalizzazione di alcune cose è fondamentale. Fermo lì. Con qualsiasi legge elettorale, vota i nani, i nani, i nani. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Come godo! Ah, Renzi è andato a casa! Adesso arrivano i miei amici della Lega Nord! Ah, cacciamo fuori dall'Italia tutti sti negretti che fanno a spasso! I negretti se ne tornano a casa loro! Perché già hanno rotto i coglioni! Però c'è un problema! Ma tutte ste barche mo, per rimandarle indietro, ma dove le pigliamo ste barche? Ma ste barche che ce le date? Ah, vero, c'è la Marina Militare, sì. Ma Marina Militare gli dà i camici, assistente dell'infanzia. E ci servono per riportare a casa tutti i negretti. Questo era karma, Parenzo. Secondo te il razzismo puro? Secondo me è un miserabile schifoso razzista che ex legge Mancino dovrebbe essere immediatamente inquisito, processato, possibilmente condannato, ma questo lo diranno i giudici una volta che acquisiranno il nastro, una volta ascoltata la trasmissione della Zanzara attraverso il 24, a quel punto condannato con sentenza definitiva, sbattuto in una patria galera per un periodo molto limitato di 7 giorni, fatto uscire dalla galera, mandato ai lavori socialmente utili, cioè a pulire il sedere ai migranti. Allora ragazzi, è successa una cosa abbastanza incredibile a Roma, come sai, Parenzo, no? Come ti ho informato nel primo pomeriggio, cioè una famiglia marocchina, padre lavoratore, lei credo casalinga, tre figli, è stata assegnata una casa popolare in un quartiere molto molto popolare anch'esso, diciamo, casa popolare in un quartiere popolare, scusate il gioco di parole, a San Basilio a Roma. Cioè assegnazione regolare ad una famiglia marocchina con reddito fino a 12.000 euro, cioè trattasi di una famiglia con un reddito basso, è stata assegnata una casa popolare. Uno può discutere di famiglia marocchina invece di una famiglia italiana, però come si sa basta avere la residenza, non c'è nessuna, no, non c'è nessuna differenza nei comuni. Allora gli abitanti di queste case popolari nel quartiere San Basilio si sono ribellati e al grido di via i negri questa famiglia è stata cacciata da San Basilio, da questo, e ha rinunciato impauriti, hanno rinunciato alla casa. Poveretti, ma te ti rendi conto che vigliaccata nella gente che lavora, persone oneste, civili, per bene, qui non padri vogliamo di famiglia negri, con figli, qui tornate non a casa col gommone, avrebbero detto alcuni abitanti. Mamma, 5 mia. Denunciati. Questo è frutto, sai di che cosa? Di che cosa? È frutto del fatto che ormai, siccome è diventato normale, purtroppo, dire queste cose, perché ci sono dei razzisti che in radio, in televisione, dei politici che su questo costruiscono. Ma è meglio che vengano fuori, però. È meglio che vengano perseguiti, non perquisiti. Perseguiti, questi sono dei crimini. E beh, è un reato. Ma scusami, una famiglia per bene. No, ma io infatti non discuto su questo, per carità. Ma questo perché queste persone si sentono autorizzate a offendere, a dire così? Perché vedono che anche i politici lo fanno, che è normale. No. Assolutamente sì. La famiglia marocchina con tre figli, composta da madre disoccupata, operaio edile con reddito annuo di 12.000 euro. Ripeto, a questa famiglia è stata assegnata una casa popolare. E questa casa è stata praticamente presa d'assalto. Questa famiglia è stata respinta al grido di via i negri, non vogliamo i negri, che poi questi negri non sono, sono pure marocchini, cioè una negritudine un po' diversa se proprio uno vuole, no? Sì. Vuole andare a verificare la realtà delle cose. Comunque, questo è successo a Roma, quartiere San Basilio. Via negri, cacciata famiglia da casa propria da San Basilio. A proposito di governo, invece, caro David, l'Italia, purtroppo, lo devo dire, ma questo l'abbiamo già detto a lungo, è un paese ingovernabile. Allora, ti rendi conto che probabilmente non si riuscirà a votare a febbraio perché la Corte Costituzionale ha preso i suoi tempi, certo, deciderà per carità, con tutti i soldi che avete, i giudici della Corte Costituzionale, pigliatevi altri 6 mesi, che ve ne frega, tanto Corte Costituzionale, ma dai, il 24 di gennaio deciderà, è un organismo di garanzia, come ma tu sai, ma questo lo sappiamo, no? Non c'è bisogno che lo ripeti. Allora è un organismo di garanzia e ti pregherei, ma lavorassero anche di notte, ma lavorano e decidessero in fretta su questa legge elettorale. Le giuri sono importanti, ponderate, è una vergogna, vanno, che non ci siamo possibili andare a votare, una vergogna, vanno, ecco, è arrivato lui a votare, vergogna, non ci fanno votare, no, vergogna. Sì, una vergogna. Ma ci fanno votare, cos'è che non ci fanno votare? Abbiamo appena votato un referendum, ma si va a votare sicuro, va bene, ovvio. Allora, ma bisogna fare una buona legge elettorale. Mi dicono che qui sotto, il Sole 24 Ore, all'interno dello stabile, caro Parenzo, ci sono un gruppo di signori raggiunti adesso anche dalla polizia. Sì, bene. Quando interviene la polizia va sempre tu bene. Tu sei sempre d'accordo con te. Sempre. Che inneggiano, cioè hanno fatto dei cartelli contro il sottoscritto. Bene, questo è la buono, caccia, perché vanno difesi la libertà caccia, di parola. Sì, ma infatti libertà va di difesa parola. Libertà di parola. Il diritto a insultare Cruciani, quindi sto dalla parte loro. La caccia uccide animali umani, sì, quinto comandamento non uccidere vale per tutti. Giornalisti prezzolati, dite la verità. Cruciani, lottiamo anche per tua figlia. No, veramente, per mia figlia al limite lotto io se proprio devo lottare per qualche cosa. Per cui sono contro la caccia e dicono che io penso. Andro, sei lì? Che succede, Andro? Beh, siamo sempre nella hall, alla reception del Sole 24 Ore. Che succede? Siamo chi? Sei da solo? Come siamo? Sono qui, cazzo, noi ci siamo. Tranquillissimi. Sei, devi dire. Singoli. Sei, non siamo. Sei i grandi inviati. Ecco, siamo qui allora a Washington. Vabbè, come ma chi Washington? Cazzo c'è? Dai, grazie Mercù. Parla Mercù. Fate parlare Andro Mercù. Così mi piace. Ci c'è, dai. L'ottimo Mercù, che tra l'altro ha quel problemino lì di erezione, ma questa non vogliamo dire. Abbiamo detto in diretta. No, siamo in diretta ora. Sì, siamo in diretta. Oh mamma mia, mi dispiace, scusa. Andro, fammi parlare con qualcuno di questi stronzi, ecco, con dai. Alessandra di Lenge, no, diciamo, ma non Alessandra, più sì, vabbè, dammi Alessandra del gruppo, dai. Te la passo, dammi, che volete, bravissimo Alessandra, pronto, di Lenge, sì sì, che volete qua sotto stasera? Noi stasera vogliamo semplicemente che diciate la verità, dal momento che siete giornalisti, dal momento che ma perché contro di noi? Perché contro di noi? Okay, perché te lo dico. Perché siamo a favore della caccia, perché cosa? Sì, perché non dite che non siete informati, siete a favore della caccia, dite che cacciano nelle riserve, non è assolutamente vero. Avete detto che la campagna ha tanto inquinato, un po' di piombo in più, un po' di piombo in meno, che cambia. Visto che Parenzo ieri si è arrabbiato perché un parlamentare non sapeva quanti articoli ha la Costituzione. Voi che siete giornalisti dovreste sapere di cosa state parlando, ma mi pare di no. Ma non ho capito, adesso che cosa fa della sua? Tu sei sporca di sangue addosso, che cosa c'hai addosso? Sì, sono sporca di sangue addosso, ma perché? Perché rappresentiamo quello che succede al pianeta. Ragazzi, quello io sono a favore della caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia. 10 anni perché le avrete consegnato, ma lascia perdere mia figlia, dai. In cui non ci sarà più da mangiare. Ma non e è anche vero. Per tua figlia. Tu tra 10 anni sarai costretto a chiedere scusa a tua figlia per le cavolate che hai detto in radio. Viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia. Sai dire qualcos'altro oltre che questa stronzata enorme? La caccia è regolamentata, la caccia è regolamentata, non rompete le scatole. Voi siete in boschi, in mezzo ai centri abitati, c'è la gente che corre e passa di fianco ai cacciatori perché è in mezzo alle case che avviene la caccia. Lo sapete nel vostro mondo perfetto, te Parenzo, che succede? Succede così? No, non sapete di cosa Senti, state cara parlando di Lenge, mai. Cara di Lenge, allora, la caccia, se qualcuno fa delle cose contro le regole, è giusto che venga perseguito. Sempre! Voi li volete morti i cacciatori! Voi volete morti i cacciatori! Voi volete morti! Vi do un suggerimento, prendete in ostaggio Mercù! Prendetelo in ostaggio! Prendete in ostaggio Mercudico, tenetelo lì in ostaggio, manifestanti. No, fate salire uno di noi. Ma che facciamo salire? No, tenete in ostaggio, minacciate che non ve ne andate, tenete in ostaggio Andro Mercù immediatamente. No, però scusate, non ho capito. Ma non c'è nessun problema. Ma che è arrivata la polizia lì? È arrivata la polizia? Sì. E che vogliono? Vogliono le carte di identità? Hanno preso i documenti, ma non è un problema perché noi abbiamo ragione. Resistete, ragazzi, resistete. Madre Teresa di Calcutta diceva che chi ha ragione è doppiamente armato. Bravi. Giusto, resistete. Senti, noi rimaniamo oggi, qua, senti, Crociani, ma rimanete qua, fate bravi, cazzo che bravi, volete. Giusto, oggi bravi, bravi. Una vostra amica su Twitter, probabilmente un'animalista, una vostra amica su Twitter, ha scritto di fronte alla foto di un bambino bravo, fotografato, Mercù, un bambino che mangiava la bistecca, gli ha augurato di morire di cancro. Una cosa simile, è giusto che questo bambino muoia di cancro? Non è giusto, questo non è giusto. Questa è una cosa deprecabile perché anch'io ho mangiato carne e sono cambiata. Di fronte a questo non è giusto. Però dire per radio viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva i cacciatori. Io voglio sapere una cosa, scusa. Io voglio diventare tua figlia poi si beve. Ma lascia perdere mia figlia. Se lo beve tua figlia. No, però ho capito, voglio chiederle una cosa. La caccia alla volpe, però quella in Inghilterra a cavallo si può fare. No, quella si può fare. Un secondo, almeno quella, avevo la caccia alla volpe, dico. La caccia alla volpe, solo la caccia alla volpe. Ma non la fanno più la caccia. Ma è meravigliosa la caccia alla volpe con la regina, bellissima. Perché è meravigliosa la caccia alla volpe? Perché fammi capire tu il discorso. Ti svegli la mattina presto, c'è tutto un rito. Ragazzi, sali a cavallo con questi questa nobili è gente, inglesi. Questa è gente, ma non è il caso della signora di Lenge che scrive: il bambino è vero di fronte alla foto di un padre. Aspetta, allora, aspetta. Allora, di fronte ascolta. Alla aspetta, di fronte alla foto di un padre col bambino. È gente che scrive: il bambino è vero, non ha colpe. Padre e bambino con una specie di ariete che hanno cacciato, non so che cosa. Il bambino è vero non ha colpe, ma è bene muoia subito per evitare che diventi un delinquente come il padre. E quindi, piccola merda, ci auguriamo tu possa finire male, molto male. Questo è un signore animalista, non mi ricordo il nome. Posso, Crociani? Allora, no, tu sarai contraria. Non lo so, ma sono quelli come voi che la pensano così. No, io non ho mai mai detto una cosa del genere. La gente quelli che ti circondano lì, quelli che stanno sotto con te, la pensano lo stesso. La pensano allo stesso modo, quelli che stanno lì intorno a te. No, non la pensiamo allo stesso modo. Siete cinque, dai. Tagliata. Se mi avessero augurato di morire e fossi morta, non avrei avuto il tempo fermi di tagliare. Fermi tutti, fermi, fermi. Lì c'è la pubblicità. C'è la pubblicità, speriamo che ci siano prodotti animali nella pubblicità. Prodotti animali, viva la caccia. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... A Natale fai battere il cuore. Regala Stroili. 40% di sconto su gioielli in oro e diamanti. La zanzara. Allora ragazzi, fra poco torniamo con Andro a farci raccontare questo blitz animalista, francamente grande inviato Mercu, grande inviato, bisogna blitz dirlo, animalista bisogna qui sotto ci sono 4-5 persone che si no, sono che 4-5 sono centinaia, stanno no, assediando il Sole 24 Ore, se volete non c'è sminuire, nessun assedio, però sono dentro, sono dentro la sede, sono pacifici, c'è anche la polizia, non vogliono rompere i coglioni a nessuno, io sono per la libertà di espressione anche di persone che mettono in mezzo i miei figli, su questo sono anche un po' incazzato, fra poco torno da Andro per capire quello che è successo. Bravo, cioè, non mettete in mezzo pericolo? Non mettete in mezzo mia figlia, non rompete i coglioni a gente che non c'entra niente. Tutto il resto si può dire, No, ma tanto per rimanere in argomento, oggi c'è una sul cosiddetto web che si chiama Lorena Gargano, una signora che si chiama Lorena Gargano, che ovviamente non dice nulla, non è una persona famosa, non è una persona conosciuta, una animalista abbastanza convinta, la quale di fronte a una foto, ripeto, ennesima foto di un bambino che va a caccia, quello che è, ha scritto: spero ti venga un cancro, piccolo bastardo. Questo è il clima. Ma poi sono soprattutto le donne che dicono queste cazzate. Sono soprattutto le donne. Per fortuna, a proposito di politicamente scorretto, quello che si può dire, quello che non si può dire, caro David, come sai, domenica c'è stato il derby di Roma. Dopo il derby di Roma, ne abbiamo discusso ieri sera anche a Tikitaka, che cosa è accaduto? Un signore che si chiama Lulic, che è un giocatore di pallone bosniaco, ha detto una frase. Oggi, per fortuna, qualcuno ha detto che non sarà accusato di razzismo, magari sarà squalificato per altre cose. Ma non si tratta di razzismo. Io sono sicuro che tu non la pensi come questo giudice del calcio. Assolutamente. Sentiamo la frase incriminata. Ecco, appunto. Siete un po' caduti nella provocazione di Rudiger. C'è stato quel battibecco con Cataldi, da cui poi è scaturito il parapiglia. Anche a fine partita il giocatore della Roma stava venendo verso la vostra panchina. 2 anni fa era lì Stoccarda, vendeva pure calzini o cinture, adesso fa fenomeno, quindi sicuramente un ragazzo, ma non è lui, non è colpa sua, è colpa di quelli che stanno intorno a lui, che non fanno crescere un ragazzo maleducato, diciamo così. 2 anni fa vendeva calzini e cinture a Stoccarda, caro Parenzo, come un vucumpra qualsiasi. La mia tesi è molto semplice. Non c'è tesi, ci sono le parole lì che lo inchiodano. Che cos'è, razzismo puro? Non ho capito. Ma mi pare evidente, ma che cos'è se no il razzismo, se non giocare su degli stereotipi e dei luoghi comuni? Vogliamo mettere il reato... Fare verso della scimmia? Appunto, ma non è la stessa cosa. Quando Calderoli dai. Diede dell'orango alla ex ministro Chieng, ma che cosa gli ha detto? Gli ha detto che è un poveraccio. Commise un atto di razzismo, perché è lo stereotipo più bieco e più basso, è la propaganda più schifosamente razzista, ma quella di mai? Attribuire ma sembianze di scimmie agli immigrati. E beh, questo che cosa ha detto? Ha detto sei un poveraccio. Fino a qualche anno fa ha detto un'idiozia, chiaramente. Ha detto sei un poveraccio. Fino a qualche anno fa quello lì era un poveraccio lui stesso, ma non lo perché so, chissà ma certo dove che stava. Non lo so, ma ragazzi, non erano si può dire che se io dico sei un poveraccio, vendevi, sei uno che vendi i calzini e le cinture, che cos'è? E lui cos'è invece? Uno ma statista questo, della Treccani. Che è razzismo che questo? È razzismo? Che? È razzismo? Sì, è un classico stereotipo di chi ma si usa, che, come dai. Dire vai sulla torna sull'albero di banane, no? È come ma dire torna sull'albero di banane. E comunque dai. Ragazzi, quella baracca lì del calcio è governata da un signore che appunto qualche anno fa, prima di essere eletto a presidente della Federcalcio, ha detto che gli africani vengono qui. Vecchio. Gli africani vengono qui rubando il posto agli italiani e poco prima mangiavano le banane. La mela però è marcia dall'albero, non c'è dubbio. E dunque non possono condannare nessuno. Ma lì c'è una cosa chiara che riguarda le scimmie. Franco dalla provincia di Sassari. Poi andiamo ad Andro a capire che cazzo stanno facendo questi qua sotto. Franco. Sì, ciao, dimmi, signori. Dimmi. Ciao. Ascolta, tu prima hai detto una cosa abbastanza netta. Non rompete i coglioni, non cercate mia figlia. E hai ragione, non bisogna cercare. Perché è una minore, cioè perché non può rispondere, può rispondere lei direttamente a queste stronzate, solo per questo, perché avesse 18 anni può fare il cazzo che vuole. Sì, lo può fare, anche meno, ma siccome ha 11 anni non è che può intervenire a dire no, non vuoi. A parte che mia figlia odia la caccia come tutti i bambini, ma è normale. Se le dice a un bambino della caccia ti dicono no, non bisogna cacciare gli animali, ma mi sembra tutti i bambini del mondo, a parte quelli che sono probabilmente, ma a me non me ne frega niente, io gli dico che è giusto cacciare. Quando lei mi dice no, non è giusto cacciare, io dico è giusto andare a caccia. Perché rompi i sogni dei bambini così? Ma non me ne frega niente, le dico così chiaramente, per me è giusto andare a cacciare gli animali con delle limitazioni, con delle leggi, con delle cose consentite, nei limiti di quello che possiamo fare, e ce ne sono già tanti in Italia. Mio zio, per esempio, che è un vecchio cacciatore, è costretto per legge italiana ad andare in Serbia, dove c'è un sacco di turismo della caccia, ottimo turismo della caccia in Serbia. Vai in Serbia a sparare ai fagiani, a sparare ai a non so che cosa, non mi interessa, io non ci sono mai andato. Vabbè, Franco, che volevi? Allora, ti volevo dire, a proposito di questo, ieri Cacciari, io mi limito a chiamarlo, sarebbe facile chiamarlo pezzo di merda, stronzo, personaggio. Ma tu perché ci chiami? Perché sono cieco. Sei perché cieco? Sono cieco. Quindi, per carità, dato di fatto, sono cieco. Naturalmente, normalmente cieco, non dalla nascita, sono diventato cieco per strada, nella vita. Sì, sì. Ecco, allora ti dico, ma perché cavolo lui deve, ieri ha detto queste parole, un sordo, un cieco o un handicappato può capire tranquillamente quello che dico io, ma perché non usi altri termini, coglione? No, un cieco lo può dire, lo può tranquillamente capire che Renzi si deve dimettere. Lui voleva dire, magari si ha utilizzato la parola cieco, l'ha usata, scusami, fatemi risentire Cacciari, aspetta, sì. Lo risento, Franco, risentiamolo, sì, cieco, tutti sordo. Risentiamolo tutti, Cacciari. Che certo che Renzi non può continuare a governare, questo è palese, pacifico, e certo che non si può fare un quarto governo tecnico di scopo, eccetera. È evidente che bisogna andare a governare il più rapidamente possibile, non c'è bisogno neanche di dirlo, è questo il problema. Ma dico, anche un cieco, un sordo, un handicappato capisce che non è possibile pensare di poter continuare fino alla scadenza naturale della legislatura, ma questo è palese. Allora, lui voleva dire tutti lo possono vedere questa cosa, anche tutti la possono verificare, non voleva dire che i ciechi non ragionano, Franco, no, dai. Scusami, lui ha detto, il cieco, il sordo, o che sono dunque, due indica, come lo giudichi, Cacciari? Lo giudico un testa di cazzo. Secco, così, una testa di cazzo. Una testa di cazzo, certo, perché lui ha sindacato le sue cose usando termini di... Cacciari, tu sei uno che non può capire se Renzi deve dimettersi. Sono il termine, anche un cieco vedrebbe queste cose. Mica sei cieco che non vedi questa cosa qui. Ma la volete smettere di rompere i coglioni, che siamo persone che hanno una minorazione sensoriale? Franco, a me lo dici, io ho tanti ascoltatori ciechi che stravedono per questa trasmissione, figuriamoci. Se li considero dei minus habens, o delle persone che non possono ragionare, anzi probabilmente hanno delle qualità di sensibilità in alcuni casi superiore alle nostre. Scusami, per qualità, se tu ascolti l'ultima parola che ha detto, te Parenzo è anche molto attento in queste cose, anche tu lo sei, per carità, anche se sei un rompicoglioni. Ma dico, se ascolti questa cosa qui, vedi che sulla parola handicappato lui ha calcato il termine. Gli è sfuggito, è ovvio, ha ragione l'ascoltatore. Vabbè, ma ragazzi, lui voleva dire anche una persona che non è in grado di capire. È una forma di disprezzo e di allontanamento. Maestro Cacciari, uomo di sinistra, così, uomo così. Ma che cazzo, uomo di sinistra? Troppa gente c'è di sinistra che rompe i coglioni. Io sono di sinistra da una vita e mi vergogno di persone come queste che non hanno mai lavorato in vita loro, che non rompano i coglioni. Ma quello fa il professore all'università. Sì, ma ce ne sono di professori. Ci sono professori ottimi, ci sono professori che passano la vita a andare avanti e indietro a filosofare. La rabbia di un non vedente. Tu non ti offendi. Giusta incazzatura. Gli hai dato dalla testa di cazzo, professor Cacciari. Adesso non mi dica che non sei incazzato, perché sì, ti è la giusta, questa arrabbiatura. Lui mi ha dato dell'handicappato, scusami, se permetti è la stessa cosa, forse è un po' peggio. Beh, perché darti dell'handicappato che cos'è? La parola handicappato non bisogna usarla, non ho capito. No, non bisogna usarla la parola handicappato, perché handicap significa, come viene usata dai diversamente normali, esatto. È una parola che tende a prendere le distanze da chi ha una minorazione sensoriale o mentale. La vogliamo smettere di fare una cosa qualcuno del genere? Dice, ascoltatori ciechi che stravedono per questa trasmissione, ovviamente stravedono non è nel senso che si stravedono, esatto, però vedi, sono loro, dalla nostra ma no, è così, quando una battuta la fanno loro è come, sono come le barzellette sugli ebrei, parlo del mio settore. Un conto sono le barzellette che posso raccontare io a un amico sulle, un conto è se Forza Nuova racconta una barzelletta su un ebreo, cioè capisci che è diverso. Ecco, in questo caso Cacciari che è, che è contro gli handicappati, ti ho fatto un esempio apposta, il capo del Ku Klux Klan, ho fatto un esempio apposta iperbolico, i salami vanno a leggere che su Google, ciao, cosa Franco, vuol dire iperbolico. Franco, ciao. Ciao Franco. Allora, c'è una novità. Che novità c'è? Una novità. Alessandra di Legge si è incatenata alla ringhiera qua nella hall, ma la c'è cosa una novità. Che vuol dire si è incatenata? Sì, prego, è incatenata, però dramma, c'è una cosa sola. Importante. Il codice che apre questo lucchetto è in possesso di una persona che sta su un aereo per il Perù. Beh, quindi pazzesco, ho la vaga sensazione che Alessandra resterà incatenata qua nella hall del Sole 24 Ore parecchio tempo, a meno siamo che non arrivi qualcuno con un attenaglio, con qualcosa per spaccarla. Stai lì, allora, breaking news, mandami il rumore della breaking news quando interrompo la nostra trasmissione, mandamelo immediatamente. Sei un coglione, interrompi tutto. Allora, dramma Sole 24 Ore, assedio al Sole 24 Ore a Milano, Cruciani non può uscire dalla sede del Sole, 75 manifestanti si sono barricati all'interno del Sole e si sono legati all'entrata. Sta arrivando la polizia a cavallo, carabinieri, grande dramma al Sole, il nostro inviato Andrò Mercù è nelle mani dei rapitori. Mercù. Francesco da Mantova, dai Francesco, vai Francesco, dimmi. Ciao. Dimmi. Volevo, giusto per far capire a chi non sa con che persone state avendo a che fare. La signorina di Lenge che sta incatenata e spero che veramente non riusciate mai a liberarla da lì e marcisca lì. Io ho avuto modo di averci a che fare, io sono un consulente zootecnico, ho a che fare con allevamenti di bovini da latte. La signora di Lenge mi ha contattato su Facebook dandomi del pedofilo, del nazista, dello stupratore. Ma questo perché? Non ho capito, ti hai dato del pedofilo, io, allora, nazista, stupratore su Facebook? Per il semplice motivo che io ho un contatto su Facebook, era un ex mio commilitone vegano e scrivevano le loro storie. Sì, però ragazzi, tu che mestiere fai? Adesso non andiamo a vedere le relazioni su Facebook, no, di cui non me ne può fregare di meno. Giustamente, io stavo commentando questo vegano che scriveva delle inesattezze nel confronto dei sì, ma tu che cosa zootecnico. Fai? Che cosa fai di mestiere? Consulente zootecnico, l'alimentazione, cioè? Delle vacche da latte. Dunque, okay. Tu ti occupi concretamente dell'ingrasso delle vacche da latte, diciamo. Non è dell'ingrasso, perché vabbè, dell'ingrasso comunque, della sì. Ragazzi, contribuisci secondo questi malati di, secondo questi malati di mente, Alessandra di Lenge, la Martani e tutti i capi animalisti italiani e vegani, tu sei uno che contribuisce fattivamente all'uccisione delle vacche, giusto? Io sono anche un pescatore. Sei anche un pescatore. Allora, dunque? Dunque, io commentando, ma cercando ti hanno dato del nazista, del pedofilo addirittura. Del pedofilo. Ma perché pedofilo? Non ho capito. Perché pazzesco. Allora, stupratore innanzitutto, perché le vacche vengono fecondate artificialmente. Ok, non c'è più il vecchio toro che allora? Ok. E diamo è per questo. Pedofilo. Dunque sì, pedofilo per questo. Perché ovviamente vai a fecondare questi animali che dovrebbero loro stare che sono minori naturalmente, che sono piccoli. Per loro sono minori perché nazista boh, perché loro hanno paragonano perché loro li teniamo dentro i lager. Sì, perché e poi perché loro paragonano attenzione, paragonano anche lo sterminio degli ebrei allo sterminio degli animali di oggi. Assassino e stupratore, vabbè. Una follia, però non sono pericolosi, non sono pericolosi, te lo posso assicurare, non sono pericolosi. No, però quello che a me dispiace, Cruciani, e poi dopo voglio farvi una richiesta, se possibile, questa gente non sa di cosa sta parlando, perché io cercavo di spiegare, signori, state dicendo delle inesattezze, facendo proseliti, ma su delle inesattezze. Allora mettiamo in chiaro che cosa state dicendo, poi possiamo discuterne, ma almeno partiamo da un punto di vista obiettivo. Apriti cielo. queste persone. Vabbè, però adesso non andiamo nel merito. La cosa che voglio capire è che ti hanno dato, semplicemente perché ti occupi, sei in questo settore, del pedofilo, nazista, assassino e stupratore. Paolo da Roma, ciao Francesco. Paolo Roma, vai. Paolo. Sì, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Ma veramente volevo dire una cosa apparenza, però ascoltando questo, rimanendo in tema, se mi è permesso di cambiare, a me piacerebbe fare due domande a sta ragazza, l'ha incatenata agli altri. Ma lascia perdere questa incatenata ma, adesso. Ma dico una cosa sola, breve e breve. Andro, avvicinati a questa, dimmi perché sei incatenata, facci capire, avvicinati, allora, Andro. Alessandra, perché ti sei incatenata è la domanda. Ottimo, vedi, preciso, puntuale, Marco. Dimmi Alessandra, pronto? Perché ti sei incatenata adesso? Mi sono incatenata perché voglio parlare seriamente. Ma non c'è bisogno di parlare seriamente, io sono a favore molto della bene. Caccia e tu sei contro la caccia, l'abbiamo già accertata questa cosa. Ma voi sapete come cacciano i cacciatori la mattina, dove vanno? Sapete che i fagiani, mi ha detto qualcuno che fagiani. In diretta ti sei messo a parlare della caccia al fagiano. No, io ho detto, ho detto che un membro della mia famiglia va a caccia in Serbia, okay. Perché purtroppo in Italia non si può cacciare come si può cacciare in Serbia, è una bella riserva. Serba in Serbia ha preso delle quote di una riserva in Serbia pagando profumatamente, perché mio zio è anche abbastanza ambiente, è abbastanza ambiente e dunque va a caccia tranquillamente. Ho anche degli amici cacciatori che vanno a fare dei safari in Africa, se è per questo. Ti sembra normale questo? Assolutamente normale. Che si estinguano gli animali? Ma non si estingue nessun animale. Che come estensione del loro membro mettono un fucile? Beh, anche estensione del loro membro. Perché non ho capito, paragoni chi ha il fucile a un impotente? Dici? Ma forse sai, ci sono tante teorie freudiane. Cioè no, secondo te i cacciatori sono molto grandi di una forma che può ricordare qualcos'altro. Cioè i cacciatori sono impotenti, dici. Ad avere un surrogato delle cose che non si hanno in natura. Dunque, secondo te i cacciatori sono impotenti? No, non ho detto questo. No, però vorrebbero avere un pisello più lungo. Sì, sono comunque dei malati. Sono dei malati. Allora, i fagiani, adesso, tu stai parlando della caccia. Ma è vero che hai dato del nazista? Perché ti tirano fuori dalle riserve tre mesi prima della stagione della caccia? Ma non me ne frega niente. Sono completamente rimbambiti, non vulcano nemmeno, lo sai, tutto questo. Perché ti sei incatenata? Perché ti sei incatenata? Per questi motivi, perché non mi hai fatto salire, allora mi sono incatenata. Ma quando se ne va, però, adesso, come funziona la cosa? Non me ne vado. Attenzione, breaking news, sta scendendo Barisoni a risolvere la situazione. La trattativa. Chi è Barisoni? Adesso lo scoprirai chi è Barisoni. Un momento. Mi hanno segnalato, sono Mario Capanna, buonasera. Mi hanno segnalato che un gruppo di... Mi hanno segnalato che un gruppo di arditi ha occupato fortunosamente la sede del cosiddetto Sole 24 Ore, già quotidiano della Confindustria. Allora do indicazioni ai manifestanti: non lasciate l'edificio, sto arrivando. Altri rinforzi arriveranno. Tranquillamente, arriva. Altri rinforzi arriveranno anche dal nord-est e dal nord-ovest del paese. Stiamo arrivando dicendo? Manforte alla giusta battaglia della compagna. Non conosco nel merito le rivendicazioni delle compagne che hanno occupato straordinariamente la sede del giornale della Confindustria. Ma già c'ha tanti problemi. Sto arrivando dall'Umbria con le vettovaglie. Rimanete all'interno dell'edificio, la polizia non vi può allontanare. Allora, indicazioni: negli anni 70, quando occupavamo la Fiat, fabbrica italiana automobili e tangenti, come dicevamo all'epoca, ci destendavamo per terra. Ma state buttando in farsa. Ci legavamo alle porte. La polizia, i padroni scappavano come conigli. Romiti, me lo ricordo ancora. Ma cosa Romiti, c'entra? Coniglio, vieni a manifestare. Scappava come un coniglio Romiti. Dunque, non si avvicinava. Beh, mettetevi per terra, vi devono portare via a peso la polizia. Mi raccomando, industriali del settore. Sì, aspetta, Capanna. Gli industriali del settore, come li giudici? Sì, come li giudichi di Lenge? Gli industriali, quelli che fanno la carne. No, scusate, non sento niente se gridate. Tanto sei incatenata, che cazzo te frega, te ne puoi andare. No, sto dicendo, se mi aspetta, stai facendo delle aspetta, domande, la domanda, quello che mi dici. La domanda è questa: gli industriali, quelli del settore, cioè i vari, che ne so, i Ferrarini, quelli dei prosciutti, come li giudichi tu? Come dei criminali? Cioè quelli che fanno i prosciutti? Quelli che ci danno pure i quattrini. Ascolta, ti posso fare una domanda? Sono quelli che ci danno i quattrini per questa radio. Ma sono dei benemeriti. Sono dei benemeriti. Facevano gli schiavi, facevano soldi su quello. E allora tu mi stai dicendo che i produttori, tipo di resistenza, ma sei pazza, stai facendo tu adesso, dicevano le stesse cose. Cioè stai dicendo che sono degli schiavisti? Lavoro, dicevano che perdevano il lavoro. Sta paragonando questa che sei incatenata qua sotto. Dicevano che perdevano il lavoro. Sta paragonando gli industriali, gli schiavi, quelli che mettevano le bambine nere, le bambine con la pelle scura, cioè stai paragonando, stai parando per farle vedere ai bianchi, fermali. Dicevano che perdevano il lavoro, e dunque tu stai paragonando gli industriali, i produttori di carne di questo paese, ti stai paragonando a degli schiavisti che uccidono gli animali. Certo che li sto paragonando, vergogna, vergogna, posti di lavoro in Italia, vergogna, vergogna, lascia perdere mia figlia, lasciala perdere. Ma vai a fare in culo. La FAO lo dice, la FAO lo dice. Pubblicità, pubblicità, speriamo che ci siano prodotti animali. La Zanzara. Parenzo, come Martin Luther King, I have a dream. Non mollare mai, Parenzo, sei tutti noi, silenziosi e vincenti. Se volete dire come costruire barricate contro i migranti, o come fate pompini al vostro partner, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete dire come cacate sul cesso, o perché le cinesi non lo prendono nel culo, o come sempre volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al toppissimo. Allora ragazzi, un aggiornamento dalla vicenda quotidiana Animalisti versus stiamo il sottoscritto. Stiamo arrivando dall'Umbria per dare manforte alla battaglia delle compagne e dei compagni che hanno giustamente occupato la sede dei padroni, cioè del Sole 24 Ore. Io, sottoscritto Mario Capanna, sono già in viaggio con il mio autista, ovviamente prendendo la pensione parlamentare posso anche permettermi un autista. Arrivo con l'autista alla sede del Sole, immediatamente porterò vettovaglie per passare la notte, alcune coperte perché il gelo e il freddo di questi padroni che abbasseranno la temperatura metteranno in seria condizione i nostri occupanti. Rimarremo lì fino a quando, attenzione, sì. Fino a quando non verrà dichiarato che il direttore del Sole, il sottoscritto, è nominato il dottor Mario Capanna. Ma non è vero, direttore, è napoletano. Del nuovo Sole 24 Ore. È nuovo. Abbiamo Sole. Preso finalmente il potere di quella baracca confindustriale per anni nelle mani dei padroni. Stiamo arrivando. Con stiamo risultati, arrivando. Come sappiamo. Ragazzi, distendetevi per terra, non mollate la posizione, la polizia non vi può allontanare, se vi tocca con il manganello finiscono tutti in tribunale, distendetevi per terra, vi devono tirare via di peso. Negli anni 70, piccolo aneddotica mentre arrivo, noi occupavamo la Fiat, già definita Fabbrica Italiana Automobili e Tangenti, in quell'acronimo straordinario che inventammo all'epoca. Il signor Romiti, quando lo minacciavamo, scappava come un coniglio, gli diedero la scorta dalle minacce che ricevete da noi, ovviamente formidabili quegli anni. Mario Capanna, 68, occupiamo il mondo. Allora ragazzi, aggiornamenti sono questi, a parte l'arrivo imminente di Capanna a dare manforte, come avete sentito da un collegamento. Ma hanno catturato il nostro inviato Mercù? Per adesso non so che cosa è successo. Comunque c'è una signora, un gruppo di animalisti barra vegani, tenetevelo, siccome che tenetevelo il vostro inviato. Si sono incatenati, una in particolare, sì. Si è incatenata le chiavi per aprire questo lucchetto, non so dove siano, ma alla polizia magari provvederà con delle, no, con delle cesoie magari. Si è incatenata, non so in che palo, qui dentro la sede del Sole 24 Ore. Vabbè. Luca da Pavia, vai Luca. Sì, ciao a tutti. Dimmi. Chiamavo perché sentendo le parole delle signore, della signora lì fuori, mi sono sentito un po' tirato in causa. Sì, perché sei un cacciatore. Esatto, sono un cacciatore convinto. E volevo dire che innanzitutto per essere cacciatore bisogna avere la fedina penale completamente pulita. Quindi dal punto di vista giuridico... Vabbè, ma questo così, lo sappiamo. Adesso pure voi non ci fate i coglioni. Tu stai dicendo una cosa però interessante. Scusa, aspetta, adesso che ci ragiono. Cioè, no, tu mi stai dicendo che rispetto magari a questi che ci hanno denuncia, eccetera, esatto, eccetera, voi siete persone pulite, persone con la fedina penale pulita. Diteglielo. Noi cacciatori non abbiamo precedenti penali. Siamo puliti, intonsi, molto più onesti di voi. Diteglielo a questi cialtroni. Visto che l'Italia è un paese molto rigido. Lo sai, io veramente dovrei fare il portavoce di questi cacciatori. Cioè, dovrei fare il portavoce dell'Associazione Cacciatori Italiani. No, portavoce no, ma dovrei veramente partecipare ai congressi, andare lì e dire: noi abbiamo la fedina penale pulita, siamo onesti. Ma perché non fai il portavoce dei cacciatori, tu anziché la radio? Sì, no, vabbè, che io faccio il portavoce della comunità. Quindi mi danno 500 euro al mese, tu, magari. Beh, per un po' devi. Perché non si vive con 500 euro al mese? Beh, è molto difficile. Molto difficile vivere con 500 euro al mese. Nelle mie condizioni, sì, devo dire la verità. Non sono ipocrita. Non sono ipocrita. Mamma mia, c'è gente che vive con 500 euro al mese. Quindi vergogna di quello che hai detto. Ma no, ma chi è Gennaro? Gennaro è da Napoli, chiama. Luca, grazie comunque. Grazie. Mi interessa sentire. Gennaro, Napoli, vai. Dimmi, dimmi. Andro, scendi di nuovo, dai, vai a vedere che vogliono questi. Si continua a falsificare la realtà. Cioè, qui il problema non è che l'immigrato è nero, il problema è che l'immigrato è invade. Cioè, se fossero vichinghi con le trecce bionde, le corna in testa e arrivassero su una nave, sarebbe lo stesso problema. Se questi vengono qua, non hanno un lavoro, non hanno come campare, non potranno che essere. Ma tu ti stai riferendo alla vicenda di Roma? No, no, io mi sto riferendo a tutto questo approccio. Sì, però Gennaro, adesso lasciamo delirante. Cioè, secondo te c'è un'invasione? C'è un'invasione, ci stiamo togliendo. Ma l'Europa è più piccola degli altri. Lasciamo perdere l'Europa. Cioè, rassegniamoci al fatto che noi dobbiamo difendere il benessere che ci conquistiamo facendoci un culo così dalla mattina alla sera. Giusto, giusto. Poi questa è la verità. Cioè, però il caso di Roma è un altro. Ma questo d'accordo. Non esiste più una sanità pubblica. Tu dici per colpa di quelli che noi. Anche per colpa, perché ho tanti amici medici che stanno negli ospedali e che sono costretti a lavorare per queste persone. Lei provi ad andare in Svizzera, vede se non le chiedono l'assicurazione, se non la fanno entrare. Provi ad andare in Germania. Questo è un delirio collettivo. È un delirio collettivo, proprio un impazzimento globale. Io veramente non riesco a. So che c'è gente che ci campa e ci mangia su questo business, però vogliamo aprire gli occhi o no? Allora andiamo a Messina, Caparenzo, come rispondi a Gennaro? Perché Gennaro dice una cosa molto semplice: gli extracomunitari ci stanno invadendo, ci stanno togliendo tutto, non c'è più la sanità pubblica, non possiamo permetterci di avere troppi immigrati. No, lui dice perché una parte della sanità pubblica è mangiata dall'assistenza agli extracomunitari. Lui chi? Gennaro da Napoli. Gennaro da Napoli dice: due punti. Allora, c'è un'invasione. Vabbè. La sanità pubblica. Ma perché non lo consideri un mentecatto? Perché Gennaro ha parlato. Attenzione alle 20.06 alla Zanzara. Ha parlato Gennaro da Napoli. Mamma mia, riaprite il giornale subito. Fermate le rotative. Gennaro da Napoli. Ti considera un cretino. Gennaro. Totale. No, ma totale proprio. Gennaro, come rispondi a Parenzo? Totale. No, ma voglio capire Gennaro, ti ha dato del cretino. Dice che sei un cretino totale. Se l'opinione di Gennaro da Napoli può valere quanto quella del professor Ricolfi. Ma dimmi, in un contesto non si riconduce alla cosa in un discorso un po' più corretto. Però dato che non mi ritengo superiore, non raccolgo le offese. Che no, ma non c'è offesa. Io dico semplicemente che lei ha. Sono critiche, sono penalmente rilevanti. E se mi girano le palle, lo querelo veramente. Perfetto. Lei sta. E per cosa mi querela? Non ho capito, scusi, Gennaro. Mamma mia, come trema. Sto tremando come una foglia. Mamma mia, come farò adesso? Mi arriva una querela. Il suo portafogli, tra un po'. Mi arriva una querela. No, le arriva la querela. Mamma mia, mi arriva la querela. Che danni pago? Mamma mia. Sto tremando che mi arriva la querela. Mamma mia, senti il cuore come batte. Non fare troppe buffonate. Senti il cuore come batte. Oddio. Mamma mia, Gennaro mi querela. Gennaro che ha detto che siamo di fronte a un invadito. Gennaro che danni, che danni. Ma le chiedo dei danni. No, lei se l'è auto. Lei ha telefonato. Ha espresso un'opinione. Ha espresso un'opinione che è notoriamente una idiozia. Mamma mia, ho fatto un'ingiuria a Gennaro. Ma come andrò a dormire stasera con l'ingiuria a Gennaro? Mamma mia. Ma se avessi tempo da perdere una cosa dei soldi me la farei. Mamma mia. Beh, no, è troppo presto per le vacanze di Natale. Una paura pazzesca. I giudici allora, non decidono. C'è una paura pazzesca. Vediamoci in tribunale e lei dimostri che la sanità pubblica non funziona per colpa degli immigrati. No, quando lei l'avrà dimostrato, io sono disposto. Andiamo in tribunale. Mi quereli pure. Andiamo in tribunale. Dimostri che c'è un'invasione. Lei si è ridicolizzato pubblicamente dicendo queste cose. È lei che si è ridicolizzato. Non so che farne, perché lei non è in grado di farla. Devo dire la verità, Gennaro ha perfettamente ragione. Non sulla questione della querela o no, sull'oggetto della discussione. Sull'oggetto della discussione, cioè ha detto siamo una di fronte cosa. A un'invasione. No, forse sull'invasione no. Ha detto un'altra. Forse no. Siamo di fronte al fatto che la sanità in Italia non funziona per colpa degli immigrati. Una parte della sanità, lui dice, viene mangiata. una parte lui assetata? Dice, viene sentiamo? Mangiata da persone che viene non hanno mangiata? Diritto da persone che non hanno diritto a allora, prendere. Allora ragazzi miei, il fatto che la sanità pubblica in questo paese curi anche gli immigrati che sbarcano qui è a garanzia loro, ma anche e soprattutto dovrebbe essere egoisticamente l'altra una garanzia cosa, nostra. L'altra cosa è un'altra. Gennaro mamma dice mia, tutta ragazzi, l'Africa che... non può arrivare in Europa. Ma ha ragione Gennaro. E qual è ragione tutta Gennaro. L'Africa che arriva in Europa? È quale una cosa per l'Africa? Dire che non ci possiamo permettere quale di accogliere tutta tutti. L'Africa che su questa ragione chi sta Gennaro? Accogliendo tutti? Che dite? Che cosa no, dite? Che Gennaro, cosa rispondi state tu, dicendo? Gennaro. Che dite? Gennaro! Rispondi sì. Però, amico mio. No. Non lo sento, gridate da soli. Non mi ciao sì. Gennaro, ciao. Caro, Claudio ciao. Messina, vai Claudio. Salve ragazzi. Dimmi. E allora, niente, io sentivo, sono collegato dopo, sentivo la storia di quel professore che ha detto anche un cieco, anche sì, sordo, sì, ecco. Sì. Dico, ma la finiamo col politicamente corretto. Sì. Sono un non vedente. Tu sei non vedente. Sì, sì, sì. Io ci sono diventato da grande a 20 anni. Quello che io non capisco, come quell'altro ascoltatore, quel mio collega, anche lui non vedente, ma perché ci offendiamo? Ma ci rendiamo conto che siamo noi a ghettizzarci? Cioè, poco fa tu hai dato, non mi ricordo a chi, alla vegana, una malata di mente. Bene, tutte le associazioni attaccate ai vegani. Sì, certo. Cioè, ma la finiamo. Davide, perdonami, tu sei un amante del politicamente corretto. Dico, finiamola. Cioè, lui è un non vedente e non si è sentito offeso dalle parole di Cacciari, punto. Vabbè, cioè, anche se, devo dire la verità, la parola cieco, dipende molto dai contesti, la parola cieco associata meno al fatto male, di va. Non capire meno se male. Renzi si può dimettere o no, è oggettivamente no, non vera. Io non vedente, perché il cieco appunto è chi probabilmente non vede con il cervello. Ecco, vorrei incassarmi sulla dicitura, preferisco non vedente, ma non mi sento offeso. Perché ha detto che anche un cieco poteva capire, o anche va tutto contestualizzato. Dico, è inutile fare il politicamente corretto. Cacciari voleva dire anche una persona non particolarmente, cioè non dotata di cervello, e i ciechi sono chiaramente invece dotati di cervello, e può capire che Renzi non può rimanere presidente del Consiglio. Questo voleva dire. Poi ci ha messo insieme pure la parola ciechi. Ma perché si è sbagliato? Perché fa parte del gruppo dei diversamente esatto, abili. Esatto, vedi che Claudio... Poteva essere bonco, poteva essere... Sì, esatto, un sordo, anche un sordo, adesso dico, non so che ha detto. Adesso... Ok, ha sbagliato, però offendersi, perché e quello gli ha dato della testa di cazzo, che ti devo dire, Claudio? Che ti devo dire? Allora, Andro dov'è? Dov'è Andro? Non c'è ancora. Dove cazzo sta? Deve andare qua sotto, porca miseria. Non trattarlo come Brosio. Ragazzi, non pensavo che un essere umano potesse diventare così tossico, così malato, così perverso per una trasmissione radiofonica come la Zanzara. La Zanzara. Ecco sì, per una volta non parlo di figa. Comunque, non vi rendete conto che ha vinto lui? Ha vinto lui, pagliacci, ha vinto lui, voi frustrati del 5 Stelle, i dispersi, i sopravvissuti di Forza Italia, i razzisti di merda della Lega, non avete fatto niente, avete 60% tutti insieme alle prossime elezioni, vi fa il culo con il suo 40%, vi fa il culo, pagliacci. Questa mattina mi sono svegliato con una gran voglia di miseria. Voglio vedere l'Italia che cade in ginocchio, gli imprenditori che si ammazzano, voglio vedere la gente soffrire, l'Italia in difficoltà, lo spread a 4 milioni lo voglio, voglio vedere dei governi, spero che cambino la legge elettorale, voglio vedere dei governi di 40 partiti dello 0,05%, abbassiamo la soglia a 0,04, li voglio vedere, discutere, voglio anche il governo grillino, voglio vederli fallire. No, c'ho una voglia di distruzione questa mattina, di miseria, voglio vedere la gente che non va neanche più in pizzeria, porca puttana. Voglio vedere la gente che perde il lavoro, tutti, uno a uno, anche nella mia azienda, uno a uno, come birilli. Merda, c'ho una voglia di Richard Benson questa mattina. No! Renzi non c'è più. Ah, come godo, mamma mia, Ruciani, come godo. Ah, che bello, che bello, mamma mia. Godere e siamo al top. come mai commentate sempre quello che dicono Gasparri o Salvini o Brunetta e invece le minchiate che dicono quella muffa di Bersani o di D'Alema, quella muffa di D'Alema, che sono muffa, gente che non ha lavorato un giorno nella loro vita e vengono pagati da noi per tutta la vita. Come mai non dite niente delle minchiate che sparano loro? Due babbuini siete! Il silenzio. Sono da solo in mezzo a un bosco e del traffico non me ne frega un cazzo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, la cosa incredibile è che tutti quanti dicevano: se vince il no, crolla tutto. Tutto. Ah, hai appena visto il mio tweet? Eh? No, non ho visto il tuo tweet. Non ho visto il tuo tweet. Perché? Che hai scritto? No, non ho visto. Bravo, stavo per dire la stessa cosa che hai detto, cioè, tu. Guarda, vedi, ogni tanto abbiamo. Solo con meno violenza, con più politically correct. Ho scritto semplicemente. Meno violenza, che ho detto io? Scusa, violenza. Usi per me. La borsa di Milano vola, spread sì, sotto 160 punti. Sì. Complotto dei mercati? Beh, giusto, giustissimo, dai. Ecco, cioè, spread bassissimo. Ecco, senti la violenza. La borsa vola. Differenza. No, spread bassissimo. Sì. La borsa vola. Sì. Ragazzi, ma la paura che ci avete detto prima, che ci avete, no, che ci avete segnalato, la paura che ci avete comunicato prima, ragazzi, se vince il no, il paese va nei casini. Succede niente. Tutto tranquillo, calmo. Tutto serenità, calmo. Tranquillità. Dai, su, che boiate, ragazzi. Allora, Andro Mercù dalla reception del Sole 24 Ore, grande inviato di guerra, con la vegana. Che è successo? Con l'animalista anticaccia che si è incatenata, dobbiamo sopportare anche questo, qui al Sole 24 Ore. Andro, che succede? Succede che è sempre incatenata e si prosegue a la sentire. Polizia c'è? Diciamo, la polizia c'è? C'è la polizia, sì, che sta vigilando, tutto regolare. Ma scusa, tutto, ma non possono liberarla dalle catene? Non ho capito. E ci vorrebbero delle cesoie, ci vorrebbe qualcosa di insomma... Ripassamela un attimo, dai, te la ripasso. Vediamo che poca intenzione di fare. Alessandra? Sì. Che succede? Non ho capito, ma perché non portate ste chiavi? Basta con sta buffonata, no? No, non ci abbiamo le chiavi, non è una buffonata, siete voi buffoni. Chi le ha le chiavi? No, non ci sono le chiavi, c'è la combinazione. Ma adesso verrà un signore con le cesoie e spezzerà queste catene, ma per quanto tempo vuoi rimanere lì? Ma finché non arriva questo signore io ci rimango, non ho problemi sinceramente, sono altri che hanno i problemi. Scusa, come hai votato al referendum, per curiosità? Tanto per ma cosa dire. Cavolo vuol dire questa cosa ma qua? Così, ho votato no. Hai votato no? Beh, tutto il mondo vegano, animalista ha votato no. Io non parlo, so che tanti hanno votato no e io ho votato no, però tu non c'entra col motivo per cui siamo qui no, oggi. Voi siete lì perché io sono a favore della caccia e vabbè, no, faccio propaganda a favore della caccia. Non hai capito, e perché noi cosa, siamo allora? Qui... Perché non vi informate e dite delle oddio, cose che non sapete. Ma su che cosa non ci informiamo? Voi. Ma che cosa? Tu sei a favore contro la caccia? Quando mi avete chiamato l'ultima volta c'è stato Parenzo, che nomino, che ha detto che la caccia viene fatta in luoghi protetti. Vabbè, ma ragazzi, in luoghi, ma lasciamo viene perdere fatta i dettagli. In mezzo alle case, lasciamo in mezzo perdere alle i dettagli. Case, con le piste ciclabili e i posti dove la gente corre, con tanto di cartello, zona di caccia. Allora, questa radio è pagata con i soldi di persone, con i soldi di persone, di imprenditori, anche di molti lavoratori di carni, lavoratori di macelli, industriali sì, della carne, industriali vabbè, del quindi... prosciutto, eccetera. E tu li hai definiti prima, li hai definiti degli assassini in lo pratica. Lo devo ripetere? No, ma per carità lo puoi ripetere. Tu sai che portavano le bambine di chi? Colore, le mettevano questa in cosa. Gabbia per farle vedere ai bianchi. Ma cosa c'entra? E quando li contestavi dicevano che perdevano il lavoro. Come si chiama quello delle... cosa che fa chi lavora la carne. Come si chiama quello diciamo là famoso, Parenzo? Tu che conosci meglio di me tutti gli industriali, incredibilmente, pur essendo uno di sinistra. Dimmi. Come si chiama quello là famoso dei salumi in Italia? Come si chiama? Un momento. Per quanto riguarda i salumi, il signor Amadori, di cui io Amadori, come lo consideri quello dei polli? Alessandra, Amadori, quello dei polli, come lo consideri? È ovviamente un assassino. Un assassino, Amadori è un assassino. Bene, assassino? Ferrarini, ma Ferrarini. Ma tutti, ma anche se non me li elenchi tutti, Cruciani. Ma Rana, tu sai, Giovanni Rana, un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali, sono tutti tortellini, degli assassini. Cremolini, Pasolini, Pasolini. No, scusa, quello è Sgarbi. Cremolini, il mio amico Cremolini, un assassino. Ma perché è un assassino? Tu sai, solo Cremolini ha una cosa particolare. Ah, ma l'aereo privato sì, vabbè, e lo champagne. Vabbè, due cose. Sì, ma cosa significa questa cosa qua? Questa non mi sembra una cosa particolare. Sai che i dati FAO dicono che se si eliminasse il consumo di carne ci sarebbe un pasto assicurato al giorno per un anno per ogni elemento umano del pianeta. Vabbè, ma adesso sto cazzo di catene, che dobbiamo fare con queste catene, che stai giù con le catene? Hai capito cosa ti ho detto? Ma vabbè, ho capito, dai, una vecchia argomento. Stai casseggiando. Allora, Silvano da Bergamo, fermo. Andro, ci colleghiamo dopo per capire come va a finire questa situazione. Silvano, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Allora, per la signorina lì che si è incatenata, ve la do io la soluzione. Qual chiudete è? Tutto, andate a casa, spegnete il riscaldamento, le luci e aprite porte e finestre. Che vuol dire? Vedrai come trova la combinazione per aprire. Ma no, quella è gente con la scorza dura, questi buona, qua. Lasciala lì, vedrai che domani mattina quando tornate non c'è più. Ha già aperto tutto, è già sparita. Poi? Telefonavo per un'altra cosa. Che vuoi? Il nostro amicone comunista ben pensante, Parenzo. Eccoci qua, buonasera e benvenuto. Visto che la famiglia di Marocchini non l'hanno lasciata entrare. Sì, quella è brutta. Aspetti un attimo che la precedo, se li prendo a casa sua. Aspetta, vedrai che adesso tu dice. Eccolo qua. Beh, effettivamente sono a Roma. Lei ha detto qua una cosa molto nuova. Roma, sa? Parenzo è a Roma, ci faccia vedere. E li ospiti a casa sua. Aspetta, che bevo un altro goccettino di vino. Predica, ci faccia vedere. Comunque, se quello là fa le navi, i Negretti. Io consiglio di metterci anche Parenzo, portatelo via, che a noi ci ha rotto le palle. Tutte cose originalissime. Scusami, Silvano, amico mio. Nuove. Mio Silvano, caro, non ho capito. Silvano, questi, razzista, come sta? Questi signori, caro che, mio razzista, che hanno del cacciato 2026. Questi che hanno cacciato dal palazzo popolare di Case Popolare di Roma lì a San Basilio, effettivamente avevano ottenuto queste case secondo la legge, così sembra, signor Silvano, capito? Se hai tre figli, se lavora solo uno, però noi italiani chi è che ha tre figli? Vabbè, ho capito, amico come mio, quello però facciamo mantenere tre figli? Cioè tu dici la precedenza, tu dici nelle case popolari la precedenza agli italiani, tu dici. Precedenza, perlomeno questa storia qua dei figli, questi qua sono come i conigli. Ah, tu dici fanno figli, sono disoccupati perché comunque vengono qui e non trovano lavoro, alla fine ci fottono. Allora hanno sempre la precedenza. Buono, e sulla però, nave con Parenzo, con quelli che manderemo via, per primi dobbiamo fare salire il mediatore culturale che si vede a Turete 4. Ah, quello Moody Guy là, Moody Guy. Lo so, io lo vedo, poi cambio canale perché sennò comincio a stare male. La realtà è che tu non sopporti i negri, secondo me. No, io ho tanti amici. No, negri? Assolutamente no. Negri? No, cioè, negri, bianchi, verdi, rossi. Mi stanno più sui coglioni i comunisti. Ah, più dei negri, ecco, un'analisi, sicuramente sì. Vabbè, proprio non li tollero. Marco da Brescia, vai Marco, dimmi. Pronto, buonasera. Dimmi Marco. Volevo dire alla signora lì che si è incatenata che probabilmente lei dice che, come dice che il fucile dovrebbe essere un prolungamento dell'organo sessuale maschile, sì, probabilmente è lei che ha bisogno di qualche altro uccello, ecco. Beh, amico mio, tu stai dicendo che la signora Alessandra elegante di Lenge è lì, ma in realtà perché è frustrata e ha bisogno di pisello, questo dici esatto, tu, giusto Marco? Sì, Andro, puoi chiedere alla signora di Lenge se questa cosa qui torna, se questo ragionamento torna? Signora di Lenge? Alessandra, scusate, ma ci sono dei ragionamenti sui volatili, il fatto che il prolungamento del no, però passamelo un attimo, passamelo, non c'è bisogno di farlo. Però era ottimo come stava ponendo la domanda. Marco, era ottimo. Sì. Scusami, ti faccio sentire sempre incatenato sotto al sole 24 ore questa sera. Sì, ottimo. Marco, rimanete lì, non abbandonate la postazione. Marco, vuoi chiedere alla signora quello che stavi dicendo prima? Vuoi fare lo stesso ragionamento? Volevo dire che lei ha scomodato Freud per dire che probabilmente il fucile è un prolungamento dell'organo sessuale maschile, vanno a caccia perché sono frustrati. Sì. Volevo dire che probabilmente è lei che è frustrata. No, io so benissimo, qualche... cioè, guarda, ma sinceramente no, guarda, la mia vita da ogni punto di vista è molto allegra, sinceramente. Aspetta. È così allegra che sinceramente non mi sveglierei la mattina alle 6 ad andare a sparare se avessi da fare qualcos'altro. Sta dicendo Freud. Marco, che cosa hai detto? Che forse di che cosa ha bisogno la signora di Lenge? Di qualche altro uccello. Cioè, questa ma è ragione. Questi sono non affari miei e non devo rendere conto a lui. Dunque l'aspetto sessuale non conta. Non hanno nessun punto di vista, nessun problema da questo punto di vista. Anzi, lo fanno meglio, dicono. Ecco, esatto. Volevo dirle poi un'altra cosa, già che ci sentiamo. Perché nessuno va a vedere cosa avviene nei macelli? Ma quello... Dove sgozzano, no, illegalmente, agnelli, eccetera, perché la religione... islamica dice che bisogna togliere tutto il sangue, ma sapete quanto soffre? Andate un a rompere i coglioni agli islamici, animale. Non ci andate lì a rompere i coglioni perché vi fanno un mazzo così, cara di Lenge. Gli islamici, quelli no, che sgozzano anche in Italia, li sgozzano, li stordiscono per appenderli alle zampe. Andate nei campi rom, ferma lì. Vogliamo Parenzo sindaco di Frosinone? Parenzo comanda Frosinone! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... A Natale fai battere il cuore. Regala Stroili. 40% di sconto su gioielli in oro e diamanti. La Zanzara. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di... Vino! Di... Vino! Se noi diciamo Elo, voi rispondete Im. Elo! Im! Elo! Im! Mai al mondo verrà la fine. Oddio, ma chi è? No, il divino Telma, no! Divino? Sì, siamo qua. Sì. Eccoci qui, Divino Telma, buonasera, buonasera. Vi salutiamo e benediciamo da Cortina, amatissimi figli. Allora. Abbiamo celebrato tutta la notte il trionfo, il crollo del Duce Puffo che noi avevamo profetizzato. Non c'è dubbio. Domani ci sarà qualche considerazione sul crollo del Duce Puffo, ci sarà anche un rituale direttamente dalla fontana di Trevi. Noi saremo come dentro la fontana di Trevi. Perché la fontana di Trevi? Chi lo desidera potrà stabilire un contatto energetico. Quando noi appariremo all'interno della fontana, voi tenderete le vostre braccia nella nostra direzione. Scusa Divino, scusami. Ma quali che c'è? Basta! Quali braccia? Quale direzione? Se vai nella fontana di Trevi ti devono multare, cretino! Un pagliaccio. Le multe un insulso proveniente da giurassico. Ma basta, chiudilo. No. Ominide senza arte né parte. No, aspetta, Divino. Notorio scarto del genere umano in un momento della distrazione della divinità immortale, perché anche gli dèi naturalmente ogni tanto devono riposare. È uscito fuori questo prototipo di rana ominide. Però Divino, scusa, ecco, Davide, stai zitto un attimo. Divino, volevo sapere una cosa. Sicuramente tu ci hai azzeccato con questa. Ma che azzeccato? Zitto. Ma che cazzo sì, tanto più che non l'abbiamo detto due o tre giorni fa. No, mesi fa, noi l'abbiamo detto appena abbiamo capito qual era la tipologia del programma autoritario del Duce Puffo. Ecco, io la cosa curiosa che voglio chiedere. Ma cosa gli chiedi? Zitto. È un mitomane! Mesi fa. Perché adesso hai scelto la location della Fontana di Trevi? Perché è curioso, prima stavi sul Monte di Firenze. Lì del Bernini. La Fontana di Trevi innanzitutto ha un ruolo specifico, gli occultisti ben sanno che si tratta di un luogo magico che può essere utilizzato in certe occasioni. Ma la Fontana di Trevi si noti. Sì. Quando noi siamo entrati acclamati dal popolo festante, ma quale acclamati? È arrivata la polizia a portarti anche via. I romani certo non potrebbero acclamare questo umanoide perché ma l'umanoide non entra nella fontana di Trevi per un pesce palla. Ma però scusami, noi, ma dai, però non si può sopportare dal la polizia. Vada lì la polizia ad arrestare sto mitomane domani. Ma dai, per mitomane. Gli astanti tendendo verso di loro le braccia. Sì. Amorevoli e cioè come funziona questa, naturalmente non verso tutti, come funziona questa, questo rito alla Fontana di Trevi tecnicamente, quando ci vedrete entrare nella Fontana di Trevi acclamati dal popolo proveniente dalle più diverse località italiane. Ma per forza la gente va lì a fotografare la fontana, non il coglione, dai ragazzi, basta. Tenderemo verso di voi le braccia, amate pecorelle. Ma pecorelle è un cazzo. Vestiti di rosso, perché rosso come un pagliaccio sarà vestito rituale, come sempre. E voi farete altrettanto. Ma io non farò proprio niente. Io chiamo la polizia. All'interno della fontana, già, voi tenderete le vostre passeggia, braccia invocando. Sì, e poi arriverà uno vestito di bianco. Arriverà uno e vestito di bianco con una macchina con un suono blu sopra. Soltanto ai meritevoli e degni. Bene, quindi bene, noi vi consigliamo di vestirvi di bianco, no, della vostra di bianco sono i medici, se vostra di bianco della vostra purezza i psichiatri, e a quel punto se non avete il bianco potete anche, ma perché non ci saranno nudi, gente vestita di bianco, la nudità nudi è un segno, ma questo è scemo, purezza. Nudi. Però, scusami, non badate se attorno a voi vi sono altri che cioè invita la gente a spogliarsi nuda alla Fontana di Trevi. Bianco, spogliatevi, perché ma dove spogliarsi nudi alla Fontana di Trevi? Ma questo è un coglione, ma ti rendi conto o no? A meno che naturalmente non ci si trovi davanti a uno schifosissimo rettile, per esempio questo tizio senza sostanza, ecco, ma che il vero scopo è farsi notare. Io. Lui non è nessuno. È lì perché gli hanno dato un calcio nel culo. Ed ecco, è evidente che fine, che il mago ha fatto qualche favore senti a taluno. Senti il mago. E allora noi ci chiediamo, ma e secondo voi anche, riflettete. Può essere il favore che costui può avere fatto? Quale può essere quell'idiota che va alla fontana? Ecco, bravo, all'interesse dei terzi. Qual è quell'idiota che va alla Fontana di Trevi e si spoglia nudo e non viene arrestato? O Telma? Però, quindi scusami, noi suggeriamo di buttarlo nel cesso e di farla finita. Io pensate che è il linguaggio da mago. Divino. Ci sono un linguaggio aulico. Nel cesso, perché ci sarà pure un cesso accanto a questo ufficio. Perché finalmente troverà Harry Potter. Divino, scusami, perché senti Udinì. Se uno si mette nudo la sera alla Fontana di Trevi deve essere arrestato perché è un coglione, è un malato di mente. Ma quei 2-3 euro per comprarti un panino e una o qualcosa del genere, mezza ciabatta imbottita, qualcosa imbottita, cervello, vai avanti indietro per un po' e vedi cosa ti succede. Scusami, Divino. Va bene, buonanotte. Questo nano, buonanotte. Lui non ha cervello, non può fare questi ragionamenti. Lui è un disturbato. Amatissimi figli, poiché abbiamo un impegno inderogabile, ma non c'è nessun cazzo di impegno, non possiamo assolutamente, ma non ha spostare niente da fare. Noi vi salutiamo e benediciamo di cuore gli ascoltatori. Faccio le corna della Zanzara, che sono dei poveri martiri perché devono subire ogni giorno queste banali, insulse, castronerie di questo topastro di Fogna. Vi benediciamo, amatissimi. Sì. Ti giuro, non ce la facevo più. A me, ti giuro, mi dispiace aver perso anche le staff, ma a me quello mi manda ai matti. Mi manda ai matti. Adesso qua mi scrivono, lui è simpatico però. Guarda che mi stanno scrivendo, lui è simpatico però, topazzo di Fogna. Ma come, ma perché mi scrivi così? Perché mi scrivi topazzo di Fogna? Perché? Perché? Ma come fa a starvi simpatico un signore? Googlatelo, googlatelo un attimo. Vedete, Divino Telma. Guardate che faccia, guardate come va in giro vestito. Comunque, sai che cosa ho deciso? Sai cosa ho deciso? Mentre parlavo con Divino. Sì. Di ripercorrere tutte le sue gesta. Le sue gesta. Ad esempio, chiedetevi perché non scrive sul Sole 24 Ore il Divino Telma, ad esempio, in prima pagina. Io credo che in questi anni non sarebbe stato. Perché non fai il columnista al Sole 24 Ore? A me sta zitto. Bravo, appunto. Perché non scrivi su Repubblica, sul Corriere della Sera? Perché? Federico dalla provincia di Roma. Le sue res gesta vuoi mettere insieme. Sai che tutte? Era radicale, sì, era radicale. Sì, perché i radicali raccattavano chiunque, infatti, anche l'ottimo Divino. Federico, provincia di Roma. Topazzo di Fogna, ma perché mi scrivono? Lui è simpatico, però. Vai, Federico, dimmi. Perché qualcuno che ha visto qualche foto su Facebook è mia con la faccia del Duce, ma quella faccia del Duce non era la mia, eh? Cioè, non ho capito, tu hai una foto su Facebook in cui ci sei sì, tu? Sì, perché quello che mi hanno richiamato, io stavo con un amico tornando da una battuta di caccia, eh? Sì, ma non ho capito, spiegami, allora, mettiamo in ordine. Sono un ex cacciatore, io Mettiamo in ordine mettiamo in ordine le cose. Allora, Federico, tu chiami e mi hai detto: io c'ho su Facebook una La faccia del duce. E perché la faccia del duce su Facebook? No, perché l'ho trovata sul cassonetto, io l'ho recuperata. Ma che cosa, una faccia, un busto? Mi sento benissimo con un eco che mi ritorna. No, io trovo, io sento benissimo invece stavolta, per cui stai fermo, invece, non fare nulla. Allora, io trovo sul cassonetto una faccia del duce. Una faccia, che vuol dire una faccia? Sul cassonetto, perché mi sono dato dei cani. Io, ma io che vuol dire una faccia? Sentito. Spiegami, una faccia, che è un busto, che cosa hai recuperato? Un busto, sì, è ottimo, cose dorate, che bellissimo, perché non me lo vendi? Stampa. Vendimelo. Ma come no? Ma ci sta proprio su Facebook e sta sul mio profilo, su Federico Fiorini del Sasso. Vabbè, allora, Federico, come ti chiami, Federico? Federico Fiorini del Sasso, però... scusi, quanti io, siete, io non per fare Parenzo, Federico Fiorini del Sasso. Io famiglia nobile fascista, vabbè. Sicuramente, famiglia nobile fascista. Aspetta un attimo, che mi sta scrivendo... È una massa di paraculi, Diego Volpe, Diego Volpe Pasini. Quanti, noi che siamo dei romani, così dicono, no? E io ti porto sta mezza pronuncia... Ma sono un gran fio della mignotta pure io. Ma allora che... ti spiego una cosa. Perché hai chiamato? Questa... Ancora io devo capire il motivo per cui hai chiamato. È perché io ho sentito una signora che parlava della caccia. Sì, la signora di Lenge che si è incatenata qui al Sole 24 Ore. Anzi, aspetta, fermo Federico. Andro, com'è? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Io sono vivo e sono vivi anche loro. Ma che succede? Che calma piatta. Cioè, questa è legata lì? Sì, no. C'è la polizia. La polizia. Grande tranquillità. No, ma se c'è tranquillità non c'è notizia. Sì, perché sì. Tu devi dire c'è un clima pazzesco. Esatto. Non sa fare un cazzo. La polizia. No. Cioè, sa fare devi drammatizzare lui. Tutto. Però, devi drammatizzare. Però drammatizza un attimo. Ad esempio, manca l'acqua. La ragazza è in crisi d'acqua. Stanno arrivando le forze. Cioè, caricamela un attimo. Pettinami la notizia un secondo. Non c'è niente. Tutto calmo. Ma al contrario, devi dire la situazione è drammatica. Devi dire, ma come non sappiamo fare un cazzo. Come passerà la notte, non sappiamo. Ma non devi dire così, tranquillo, devi dire che c'è che tutto. Ecco, allora ci penso io. Dalle notizie in nostro possesso, il nostro inviato Andro Mercù è nelle mani dei sequestratori. Lo hanno legato, imbavagliato. Allora, posso dare la prova che Alessandra è viva. Volete sentirla? Ma sì, l'abbiamo già sentita. Che cazzo vuole ancora? Dai, su. Vabbè, Federico, che vuoi dire? Per Alessandra, com'è la situazione? Com'è la situazione? Tranquilla. Ti sganciano? Non può essere tranquilla, non perché non può, non c'è tranquillità. Ci deve essere, tensione. State occupando la sede dei proprietari di industrie di carne. Certo, di sì, ma io sono tranquilla. Proprio ma adesso arriva motivo. La polizia di Ferrarini, ma la polizia di Cremonini. La polizia quella vera, la polizia, le guardie del corpo del signor Cremonini. Ferrarini fa le guardie del corpo non sono la polizia vera, scusami. Ma sì, ma la polizia privata. La polizia le privata di chi, sono le guardie del corpo. Di chi dà lavoro a un sacco di gente in Italia e voi volete rompere i coglioni a questi che danno lavoro a un sacco di gente. Affamano il mondo, non ma che affamano il mondo? Stai dando gente. A Cremonini affamano dell'affamatore, vergognati. Ampliate il vostro modo di vedere. Federico, che cosa vuoi dire tu, Federico? Certo. Eh? 9 euro pagano 9 euro e vanno ai ristoranti cinesi sushi e sashimi a 15 euro per mangiare una bistecca nostra, ce ne vogliono 50. Ma cosa c'entra questo adesso, questo scusa? Il problema. Spiegami, che c'entra, spiegami. Il problema è un fatto che nessuno vuole più pagare, sono una massa di tarpani, come così che succede per i cani. Io sono un ex cacciatore, per dire la verità. Cioè, in che senso, non cacci più? Soltanto no, con i cani. Non spari più? No, non sparo più. Perché? Giusto, se menano sui cani, se il cinghiale è ferito e mi mena i cani, io sparo il cinghiale e faccio tutte le riserve del centro Italia, sono una delle migliori braccate, sì. E non faccio i nomi braccate. Di quell'altre e mando avanti delle proprietà pazzesche. Vabbè. Io ho più di 30 di cani gestiti in cani, una maniera meravigliosa. Vabbè. In... Vabbè, io non ho capito ancora il motivo, tu hai capito Parenzo, il motivo per cui hai chiamato Federico, per raccontare i cazzi tuoi. Basta. Perché quello mi ha detto che mi alzo la mattina perché è quell'altra signora che diceva che bisogna avere le canne di fucile. Io gli voglio dire la verità, è pure vero, ho perso due mogli per la caccia. In che senso due mogli? Cioè? Certo, è perché mi sono distratto, può darsi, perché non ho portato tante attenzioni, perché ho dedicato tutto alla cinofilia. No, ma non ho capito, scusa, tu hai perso due mogli? La moglie è stata con qualcun altro? No, l'ho persa mica perché l'ho sparato. Che ti sei separato? Perché ci sono state... No, sì, perché... Perché pensavi ai cani e alla caccia. Pensavi... attenzioni che mancano e loro quelle, cercano e di quelle, recuperarti. E quelle, la fai. E quelle scopavano con altri? No, quelle non hanno mai scopato con nessuno, perché attenzione, purtroppo sono chi sono. Attenzione. No, ce l'ho tutte e due, le sento tutte e due. Ti voglio dire questo? La verità. Ti voglio dire la verità. Com'è che ti chiami esattamente? Cosa che voglio dire, Federico, che non è che il cacciatore. Sì, io non li posso, io com'è che ti chiami? Fastidio. Com'è che ti chiami esattamente? Mi chiamo Federico. No, ma di cognome che hai detto prima com'era? Fiorini. No, ma l'altro cognome, il secondo. E quell'altro ti dico pure del Sasso. Cioè, Fiorini, allora, del Sasso. Allora, io ti voglio dire una cosa. Fiorini del Sasso. Ti voglio dire una cosa. No, basta, hai già detto troppo, ciao. No. Nicolò da Milano, Nicolò. Ciao, Davide. Ciao. Dimmi. Ho dovuto chiamare, ho sentito questa esigenza per un attimino prendere le difese del maestro Divino Terma. Innanzitutto, il signor David Parenzo non si può permettere di rivolgersi con questo tono al maestro grande Divino Telma. Beh, insomma, adesso non esageriamo. Giusto, insomma, dai. No, ma voi sapete che il Divino Telma è plurilaureato. Sì, certo. È stato anche insignito della laurea ad onore. No, ma ha preso 7-8 sì. Lauree, allora non vuol dire un cazzo, è pieno di laureati. Simone, ma come si chiama di nome di battesimo? Il nome vero di battesimo come si chiama? Io? Chi? No, divino? No, non lei, il no, divino. No, Simone Belelli, Belelli. Simone Belelli. Allora, Simone Belelli, tale no, non è Simone Belelli. Non è Simone, no, Mario, come si chiama? Marco Belelli. Il signor sì. Marco Belelli, perché così dovete chiamarlo, allora? Non Divino Telma, perché lui si è autoproclamato il Divino Telma. No, non è che dice, lei è divino perché fa delle magie. No, lui si è alzato una mattina. Sì. Lui si chiama Marco Amleto, peraltro, che è il nome che si è aggiunto, perché il nome vero è Marco Amleto Belelli. Si è alzato una mattina e ha detto, sai cosa sono io oggi? Io sono un divino. Ah, caspita. E ha cominciato a parlare con il plurale maiestatis. Così è iniziata la storia del signor Marco Amleto Belelli. Amleto, meglio noto o Telma come è divino o Telma. Divino nel senso che beve vino, non che è divino. State attenti ad Amleto, ad Amleto e a Otelma. Amleto, fate dai, un ragazzi, confronto tra la parola Amleto e Otelma. Ragazzi, purtroppo è finita stasera. Ci sentiamo domani, ciao. Quanto rompete i coglioni, ma se non vi piace cambiate canale. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.